Ladies and gentlemen, and now Alessandro Milan and Oscar Giannino. Licenziato! Voi due siete superficiali, sciocchi, il simbolo di una vita sprecata. Basta! Basta! Basta! Prendi due elementi innocui se separati come nitrato e glicerina. Combinali insieme e avrai un esplosivo potentissimo. 24 mattino. Attenti a noi due. Sveglia e caffè, barba e bidet. Presto che perdo il tram. Se il cartellino non timbrerò. Fantozzi! No, crocefissi in sala mensa, no, mi vergogno. Ma che umiliazione pubblica. E poi mi si intrecciano. Però Paolo Villaggio che è morto, si è scoperto stamattina, non era solo Fantozzi, però no, però no, non era solo Fantozzi, soprattutto Fantozzi. Ma sai, no? Che ti dirò che non sono molto d'accordo, perché è stato sicuramente Fantozzi nell'immaginario di troppa parte della sua carriera. Poi alla fine la melanconia di quegli anni e di questi anni successivi della sua solitudine è stato il rimanere solo quella figura che non ha mai disconosciuto. Però Villaggio, sì, è stato molto molto molto di più. All'inizio ricordati l'irruzione per quelle scale urlando coi cammini di peluche 1968, io non mi dimenticherò mai. Possiamo sentirla? C'è qualcosa? Basta Martello, non lo faccio più Martello, anzi io non lo voglio più far, ma posso dare martellate lei, no? Il professor Kranz. Professor Kranz, che era l'irruzione nella televisione in bianco e nero, che era l'unico della DC della Rai, di questo personaggio che improvvisamente scendeva prorompente per le scale del grande studio di minacciava anche martellate al pubblico. Io ricordo la faccia sbarrata di mia madre, gli occhi sbarrati che dicevano è la rivoluzione, iniziava a spegnere la televisione, è la rivoluzione. Allora, come si vede, era la maniera di comunicare un'Italia che finiva molto prima di quanto poi la politica avrebbe fatto, eccetera eccetera. Quindi io non sono solo attaccato solo al volto melanconico. No, è chiaro. Comunque, signori, la notizia è questa: Paolo Villaggio, 84 anni, questa mattina si è saputo era ricoverato da qualche giorno al Policlinico Gemelli ed è morto. Insomma, ci ha lasciato. Forse anche aveva lasciato un po' la voglia di vivere, la voglia di combattere, aveva raccontato negli ultimi anni anche un po' anche l'abbandono, anche la depressione, la difficoltà di vivere, difficoltà, ruoli che non arrivavano, sì. Lo so, però ruoli però, che però, ne ha avuti, non solo fatto Fellini, Olmi, Monicelli, naturalmente anche nel suo caso c'è stato uno, come capita inevitabilmente, uno sfruttamento a manetta di mercato, no? Negli anni con i film che duravano, sì, le cui riprese duravano 6 settimane, come devo dire 5 settimane, perché era un successone garantito. Però è stata una maniera anticipatrice di un'Italia che capiva i limiti culturali di questo improvviso arrivo di milioni di italiani nella classe media, nell'omogeneizzazione dei consumi, nel credere di poter fare tutti la vita dei grandi ricchi e così via. Guarda, signori, con grande anticipo. Signori, Fracchia la belva umana. Vogliamo parlare di questo film culto, Lino Banfi e vabbè, dai, Paolo Villaggio, Fracchia la belva umana. Va bene, dai. E poi dei grandi caratteristici, cioè Gianni Agus, Filippo, cioè come no, gente che insomma, come no, assolutamente. In ogni caso, Oscar, ci sono dei santi che ci proteggono. Oggi c'è un santo che ci protegge in particolare, perché è un santo che appare solo in 3 fondamentali passaggi di San Giovanni, eppure è la storia di un pezzo molto più importante di quanto non si creda, perché si associa a lui solo il dubbio, come se non credesse, e invece no, chi è questo santo? È San Tommaso Apostolo, che infatti compare 3 volte, ma con 3 fondamenti, perché la prima volta compare nel Vangelo di Giovanni, quando a un certo punto Gesù decide di andare comunque a Betania, dove appunto c'è il suo amico Lazzaro, che è morto, solo che a quel punto già iniziano a perseguitarlo. E allora Tommaso compare dicendo, vabbè, ma noi andremo a morire con lui, quindi non ha nessun dubbio. La seconda volta è quella dell'ultima cena e gli dice, io non ho capito chi, bene, che verità, dove vai tu? E il Signore gli risponde, io sono la via, la verità e la vita. Non ci sarebbe questa risposta, che è una sinossi assoluta del cristianesimo, senza Tommaso. E poi la terza volta è quella che ricordano tutti, quando mette in dubbio che lo abbiano visto, è apparso dopo, risorto dopo. E allora quando ricompare Gesù gli dice avanti, tocca con mano, ma beati coloro che senza aver visto crederanno. Ecco, Tommaso è questo, è il dubbio, ma non è il dubbio senza fede, è il dubbio nella fede. E questo a me è sempre piaciuto molto, perché usare la logica non significa non credere, significa tentare di guardare con quello che abbiamo una realtà che è complessa. Almeno per me Tommaso è questo. Oggi, tra le tante cose da ricordare, io faccio gli auguri a Pierluigi Battista, che, di cui ho grande stima da tantissimi anni, il nostro collega, è nato lo stesso giorno e lo stesso anno di Walter Veltroni, e non ho mai capito se la cosa lo abbia divertito oppure no. O preoccupato addirittura. No, ma non credo. Ed è un giorno però triste per me, perché nel 1971 la sua casa a Parigi moriva oggi. Ohimè, il leader dei Doors, Jim Morrison, non si è mai capito perché, ma probabilmente aveva esagerato e lo trovarono nella vasca da bagno, riverso, è morto giovanissimo, non aveva 30 anni, un genio totale per quello che mi riguarda. A proposito di geni totali della musica, avrai visto anche tu il concerto di Vasco Rossi? Qualcosa? Vabbè, insomma, direi che è stato un grande. Un grandissimo evento di costume, prima che musicale, ma sì. Generazioni insieme fuse, come bisogna dire. Anche se hanno prevalso le polemiche sulla Rai, la camicia di Bonolis. Vuol dire che anche una... per quello che capita nei concerti, le misure di sicurezza, una grande anche dimostrazione data all'Europa, al mondo, di come in Italia, quando si vuole, le cose possono funzionare molto molto molto bene. Se pensiamo a poche settimane fa quello che è accaduto a Torino per la finale di Cardiff. E come no, infatti, un grande evento. Tra l'altro oggi il giornale fa un po' i calcoli e parla 36 di 36 milioni incassati tra indotto, tra ticket, tra biglietti, tra merchandising e tutto. 36 milioni, beh, d'altronde 230.000 persone lì, 225.000 paganti, erano più di 230.000. Sì, tutti quelli nei cinema, più tutti quelli che avevano acquistato magliette, merchandising. Bello, grazie. Una grande prova. E attenzione, perché Vasco Rossi dice Gaetano Curreri, questo lo diciamo soprattutto a Elisabetta Fusconi, la nostra, che ascolta e che ha con Oscar Giannino delle grandi diatribe su questo, pare che abbia detto non pensiate che sia tutto finito qui. Quindi sì, no, non perché, è l'addio del che, comandante. Che dicano i fan, lui più volte ha detto che smetteva, non smette mai. Ma in definitiva bisogna essere felici di e questo. E qui Elisabetta direbbe, non l'ha mai detto, l'avrà fatto trapelare qualcuno, ma non l'ha mai detto. Va bene, non va l'ha bene, mai ma detto, non faccio non l'ha mai detto. Fare polemiche poi dopo questo successone è due volte sciocco. Neanche sulla camicia di Bonolis. Neanche sulla verbosità di Bonolis, neanche sugli aggettivi di Bonolis, ontologico. Guardato, ma comunque sia, Bonolis da sempre ci tiene però, no? A dimostrare... con la sua sintassi, eccetera, che insomma non è proprio uno che si è arreso al ribasso. E questo, devo dire la verità, secondo me è positivo. È positivo, no, ma infatti. Allora va bene. Pochi sopravvivono. Abbiamo trovato uno dei pochi come Darwin, altrimenti. abbiamo trovato uno dei pochi in Italia che difende Bonolis dopo la serata di sabato. Che no, a un certo punto toccava difenderlo, veniva a difenderlo anche a me, perché era chiaro che lui non è che interrompeva la credeva scorsa. Che fosse perché per megalomania. Che la Rai non poteva, trasmettere. Poteva seguire 28 di 38 delle piste musicali, e questo era il contratto, e poveretto, lo hanno esposto a bestias, come si suol dire, perché vabbè, chiaro però. Che ti arrivano gli insulti, però ha fatto una bella intervista. Il professionista è il professionista. Allora, pensa a Paolo Villaggio, cosa avrebbe fatto? Pensa a Paolo Villaggio. Avrebbe coperto Vasco ridendo di contraddizioni ironiche e sardoniche. Sì. Allora, i giornali parlano di immigrazione, i giornali parlano delle contorsionismi della sinistra. Cioè, immigrazione ci quelle PD dentro fuori? No. Ah, no. No. Credevo proprio. L'immigrazione è quella seria, quella vera. Quella clandestina, che... dentro fuori PD, con Renzi, contro Renzi. Non quelli è sono i contorsionismi nel PD. Contorsionismi? Sì. C'è, ma infatti quello. C'è chi vuole il muro, chi vuole bloccare nei porti. E io avevo capito che era Renzi Pisapia. No, questo. Ah, no, invece no. Ah, ho capito. Ma ne parleremo dalle 9, dai, dell'attualità politica. Prima vogliamo parlare di un fenomeno. Caro Oscar, che è un po' sottotraccia, ma neanche tanto sottotraccia, sta aumentando sempre più. Che non sono quelli che vengono qua, ma no. Sono di quelli qua, quelli che se ne vanno di là. Vanno là. Gli italiani che a un certo punto della loro vita, soprattutto quando vanno in pensione, decidono di andarsene per lidi fiscalmente più vantaggiosi. Certo, perché meno rapinosi, con miglior potere d'acquisto. Ho detto più vantaggiosi. Io dico invece più, meno rapinosi. Meno rapinosi. Vabbè, è una rima baciata. Io ho detto ieri ho rivolto un appello. Beh, sabato ci siamo divertiti tanto con Conte Labello. Abbiamo rivolto un appello al nuovo capo di Agenzie Entrate ed Equitalia, sì, insieme Fusi. Ruffini. Sì, perché siccome c'è la Corte dei Conti che dice che la sua nomina è illegittima, e dopodiché lui deve fare questa scelta, finalmente i suoi dirigenti devono farle per concorso, non senza concorso, allora abbiamo rivolto un appello, fai come San Matteo, datti al bene, abbandona la professione di esattore delle tasse, caro Ruffini. Ma è appena arrivato, così. Ma è appena arrivato. Ma bisogna smettere all'inizio del peccato, fratello. Non è che appena arrivato può andarsene subito. Abbiamo evocato quel meraviglioso Caravaggio che sta a San Luigi dei Francesi, la lama di luce di Dio che tocca l'esattore e gli dice pentiti, e lui si pente, guarda che bello. Pensa se succede veramente, non credo che succeda. Nemmeno io. Non credo. Comunque, abbiamo ospite un imprenditore che si è trasferito in Portogallo, ha anche creato un portale, un portale che è molto emblematico, vadovia.it, si capisce subito, vadovia.it. Rosario Fazio, buongiorno. Buongiorno dottor Giannini, a lei e a tutti i radioascoltatori. Allora, lei aiuta le persone ad andare in Portogallo soprattutto, no? Sì. Iniziare ad andare in Portogallo. Sì, è una delle mete, una delle mete che stanno scegliendo ultimamente, dove trasferiamo una cinquantina di italiani al mese. 50 al mese. Beh, sono loro, Sì, sono poi 50 al mese. Ma che succede? Perché in Portogallo? Ci faccia capire. Succede, intanto sposo quello che ha detto poc'anzi, il meno rapinoso. Diciamo che il Portogallo è in assoluto il più onesto, anzi non fa pagare nulla per 10 anni. Per cui i conti sono facili da fare. In Italia chi ha una pensione da 1500 euro non appena si trasferisce in Portogallo, con le agevolazioni che ha messo in campo questo paese, la pensione arriva subito a 2000 euro. Oh, 500, costo, euro, 500 sì. euro guadagnati così appena. Il costo della vita è notevolmente più basso dell'Italia, quindi è facile capire il perché tanta gente se ne va. Però ne dico anche che questo fenomeno non è slegato dall'immigrazione che sta colpendo il nostro paese incontrollata, perché anche quello sta provocando molti malumori negli italiani, per cui vedere il nostro paese così in declino è un'altra molla che spinge molti a andarsene. Noi trasferiamo persone che potrebbero anche vivere in Italia con la loro pensione. Però decidono di andare anche per una questione, dice, addirittura di sicurezza, una qualità di vita superiore. La sicurezza è assolutamente lontanissima da quella che abbiamo in Italia, dall'insicurezza che abbiamo in Italia. Lì tutto è controllato, non c'è spazzatura, anche l'immigrazione è controllatissima. Quindi trovano delle situazioni assolutamente favorevoli. Ma ci faccia capire in sintesi perché la pensione da 1.500 diventa 2.000 euro. Cosa succede in Portogallo? L'Italia ha in essere con tutti i paesi europei, ma anche con alcuni extraeuropei, una convenzione di non doppia imposizione fiscale. Sì. Questo vuol dire che chi si trasferisce e dichiara di risiedere in un altro paese ha diritto a pagare, anzi ha il dovere di pagare le tasse nel nuovo paese di residenza, sì, e non può essere tassato in Italia, per cui le trattenute IRPEF vengono immediatamente sospese e gli vengono accreditate con la pensione. Ora il Portogallo ha messo in campo una legge molto furba che defiscalizza le pensioni degli stranieri che si trasferiscono nel loro territorio. Ah, proprio, diciamo, fa da calamita, esatto, fiscale. 10 anni di esenzione fiscale. Attira, certo, capacità di spesa, capisci? Preferisce attirare, certo, consumatori aggiuntivi, certo, invece, certo, di tosare e impedire che, certo, il consumatore. Certo. Perché quei soldi uno chiaramente poi li visto non che poi la vita costa anche meno, uno può permettersi di andare al ristorante, di aumentare i consumi. Hanno innescato un circolo virtuoso. Consideri che le persone che trasferiamo affittano casa e molti la comprano pure, per cui immettono dei capitali freschi nel paese, poi consumano, e i consumi sono diversi da quelli che fanno i portoghesi, che hanno stipendi decisamente più bassi, per cui l'economia ne guadagna parecchio. L'economia ne guadagna parecchio, il pensionato ne guadagna in termini, certo, economici. È un circolo virtuoso, sono tutti contenti. Certo, È analogo a quello che la Spagna anni fa iniziò a fare con gli ex, con i pensionati britannici. Esatto, infatti uno dei motivi per cui se c'è Brexit, sono più di 2 milioni, tanto per dire, sono terrorizzati, e se viene meno il regime di vantaggio di cui godono in Spagna è esattamente la stessa cosa. Ovviamente lei si è inventato questa professione nel senso che aiuta, immagino, gli anziani, che uno arriva in Portogallo e dice che devo fare. Guardi, fondamentalmente hanno già il problema non appena sbarcati in Portogallo, perché non conoscendo la lingua, non sapendosi muovere, sarebbero preda di, insomma, individui poco raccomandabili, per cui questo di solito avviene in paesi un po' particolari come la Tunisia, come altri paesi dove anche lì abbiamo le agenzie che assistono i nostri pensionati. In Portogallo diciamo che un po' meno. Molto, perché ricordiamo, esatto, il Portogallo è una delle mete, però c'è anche Bulgaria, Romania, Tunisia. La Tunisia magari adesso era più gettonata prima, poi ci sono stati anche dei problemi legati al terrorismo. La Tunisia paradossalmente è un paese dove continuiamo a lavorare, perché è l'unico paese al mondo che offre agevolazioni fiscali anche agli ex dipendenti statali, perché gli statali non possono andare dappertutto, perché la convenzione che l'Italia ha stipulato con gli altri paesi li esclude dalla convenzione, li esclude dalle agevolazioni fiscali, per cui l'unico paese rimane la Tunisia. Allora, Rosario Fazio, però ascoltiamo anche la storia, diciamo, se vogliamo, un altro rovescio della medaglia, perché con noi ci sta ascoltando, c'è un sindaco di Bardi in provincia di Parma, si chiama Valentina Pontremoli, è con noi. Sindaco, buongiorno e grazie di essere buongiorno Lì a Bardi c'è un altro problema, ce lo vuole spiegare lei? Ci sono troppi... quanti abitanti fate Bardi? Fa circa 2.400 abitanti residenti tutti i giorni nel comune. 2.400 abitanti residenti? Sì. Ma quanti sono lì a Bardi davvero? Tutti questi? Tutti questi sono a Bardi. Noi però arriviamo quasi a... raddoppiamo quasi la popolazione con gli aerei residenti all'estero. Ah, ecco. Cioè metà sono residenti all'estero? Sì, praticamente il nostro è un bellissimo paesino di montagna con una bellissima fortezza, dove invece i pensionati rimangono assolutamente, anzi tornano i nostri migranti, che sono la nostra, una storia di migrazione, perché facevamo 10.000 abitanti e con la guerra, nel dopoguerra, sono andati a far fortuna all'estero, diciamo così. E sono tuttora residenti all'estero, ormai pensionati, hanno la seconda casa qui a Bardi, dove tornano a passare le vacanze comunque in tranquillità, perché noi abbiamo una qualità della vita alta, grazie a Dio, nel nostro piccolo paese. Solamente che con un decreto legislativo del 2015 lo Stato praticamente li rende esenti dall'IMU e li agevola sulla TARI e la TASI, quindi sulle tasse comunali. Il nostro conto del bilancio era una perdita all'anno di circa 120.000 euro. Con 3 anni di ritardo ad oggi lo Stato ci dice: benissimo, vi mandiamo il trasferimento del mancato gettito, ma il trasferimento però è di 11.407,70 centesimi contro i 120.000 che dovevano. Cioè, invece di 120.000 all'anno. Capito, esatto. Oscar, qua ci sono troppi che stanno all'estero e non pagano l'IMU. Facoltà concessa. Non è colpa loro. Li presentassimo come furbi. Stato concede questo. Quindi lo Stato, nella sua avarizia rapinosa, essendo un ladro di strada, però concede questo. Quindi loro hanno ragione. Il problema qual è? Che la legge dice a queste amministrazioni comunali: naturalmente per te non deve subentrare un danno, ma lo Stato, come al solito, quando concede fissa i diritti, poi l'amministrazione comunale dice: no, un momento, sta scritto lì, ma poi i soldi prima di darteli, quindi... non so se è stata una svista. Non credo che gli abbiano mandato l'assegno con uno zero in meno. Sa come, signor sindaco, noi allo Stato dobbiamo dare sempre le attenuanti delle sviste, quelle che lui a noi nega sempre. Io non ne do di attenuanti adesso, perché noi siamo in difficoltà, capite? Che in tre anni il nostro bilancio perde circa 300.000 euro che non sappiamo assolutamente come coprire. Io sono giovane, ho 27 anni, ho deciso di fare il sindaco a 24. Quindi vivo qua e ci sto benissimo, noi qui stiamo benissimo, viviamo di turismo, di agricoltura, però abbiamo uno dei comuni più estesi della regione, quindi chilometri di strade quelli sono, e quindi il nostro comune di spese grosso, di esercizio, manutenzione ci sono, come? Sono assolutamente alte. No, ma infatti questo mi ha bruciato la notizia, perché la volevo svelare a Oscar, è classe 1990 il sindaco, sì, Bardi, Valentina Pontremoli, capito? Che però sta lì, il sindaco è un ruolo, il sindaco non ha età, il sindaco vive nel tempo perché è, non perché va avanti il tempo. Poi questo vale a maggior ragione se è una donna e se è giovane. Non si dice mai l'età, uffa. Vabbè, ho capito, no, ma in questo caso, era un elogio. Adesso, poi la fermerà nel tempo come tutte le donne, farà... Però sindaco, che appello fa allo Stato? Cioè, mandatemi l'assegno, ma con lo zero giusto, cioè con lo zero in più. Perché quello i soldi giusti. Quello ci spetta. No, ma guarda, si attenta, perché se chiede allo Stato di mandargli l'assegno con lo zero giusto, gli manda zero sull'assegno. Lo Stato... No, ovviamente Rosario Fazza, sono due storie diverse, ma sì, l'idea, magari anche i nostri ascoltatori adesso ci chiameranno, l'idea che qualcuno dica, vabbè, ma sono soldi sottratti allo Stato italiano, ecco, così facciamo arrabbiare Oscar. Ma lo Stato che cos'è? Nel senso, i comuni danno i servizi primari a... ai cittadini, perché i servizi principali della vita di tutti i giorni li dà il comune, quindi... Se lo Stato non ci dà i finanziamenti giusti per poter mandare avanti voi sindaco fate giusto a protestare, perché come dire, sono soldi che vi spettano e lo Stato ve ne dà di meno, invece che 120.000 vi dà 11.000 euro l'anno, e questo non si capisce. Però Rosario Fazio invece ma io fondamentalmente risponderei al sindaco che questi cittadini che si trasferiscono all'estero non usufruiscono più di questi servizi, per cui perché dovrebbero pagare delle somme per servizi che non gli vengono più erogati? No, non sono cittadini che non ci siamo capiti, sono cittadini che si erano trasferiti all'estero, che hanno per cercare fortuna i famosi migranti e tornano a Bardi, loro hanno la casa qui, loro vogliono gli stessi servizi sia che tornano 3 mesi, che tornino 2 settimane, che tornino 12. Cioè la spazzatura. Nessuno gli dice di pagare. Esatto, certo. La spazzatura, per esempio, adesso prendendo proprio il caso della spazzatura, capisco che non paghino la spazzatura come cittadino che abita a Bardi 365 giorni all'anno. Però un po' sì, magari. Io non vado in merito se devono o non devono pagare l'IMU, io vado in merito allo Stato che fa una legge. No, appunto, bravo e sindaco. Mette in ginocchio il comune. Sbagliato dire che il problema è chiamare coloro che stanno fuori. Sbagliato, c'è una legge che consente questo diritto. E c'è uno Stato inadempiente, perché a fronte di quel diritto dice, cara amministrazione comunale, noi faremo fronte, e invece non lo fa, quindi non c'entrano, insomma, come dice un po' tutte le cose. Questo vuol dire anche fare un po' il sindaco e scoprire in piccoli paesi. Dunque, che avere che... sì, Fazio, posso intervenire un attimo? Io su questa cosa onestamente non vorrei dare delle false informazioni oppure delle informazioni insomma non precise, però nel 2016 è intervenuto il governo Renzi e ha cancellato queste agevolazioni per i pensionati residenti all'estero. Quindi allora non è arrivata comunicazione ai comuni, perché i comuni in realtà non è... Però guardi, state attenti a non confondere. In questo caso, per Bardi, noi non stiamo parlando di pensionati residenti all'estero, stiamo parlando di italiani che sono pensionati nei paesi in cui sono residenti, dove sono andati a lavorare. Quindi attenti a non fare confusione. Ecco, appunto, stiamo parlando. No, ma invece il caso il portale che porta avanti Fazio è proprio: sono persone che in pensione vanno all'estero. Sono pensionati italiani, non pensionati. Il Portogallo è il paese più gettonato, il secondo e il terzo ce li dica, che dobbiamo andare un attimo in pubblicità. Le Canarie stanno andando fortissimo come sempre, ci sono 20.000 italiani residenti alle Canarie, ultimamente altri paesi, vabbè, anche la Spagna continentale, ci sono delle fasce di territorio particolarmente svantaggiate dove il governo ha previsto queste agevolazioni. Che tra l'altro tra questi paesi c'è anche la Bulgaria. Io col massimo del rispetto, ma perché tra Portogallo, Canarie, mare, vento, sole, uno deve scegliere la Bulgaria? Bellissimo paese, bellissimo paese. Ma non ci sei mai stato? Ma no, non ci sono mai stato in Bulgaria, mi attrae un po' meno delle Canarie, un po' meno del Portogallo. Ma perché tu un sei lì, joint Bob Marley, c'è anche gente che non ha i tuoi gusti, cioè, non vorrei dire. Ma no, ma che joint Bob Marley? Comunque la Bulgaria ha un grande vantaggio, che permette anche ai pensionati di fascia di reddito molto, molto bassa, 800-900 euro al mese, di vivere tranquillamente. Ah, ecco, ecco. Mentre ecco, il Portogallo, diciamo che è un paese quasi allineato all'Italia. Insomma, quindi anche lì ci sono, in base alla fascia di pensione, giustamente, uno può scegliere. Certamente. Sia la Bulgaria che la Tunisia hanno un potere, il pensionato italiano raddoppia immediatamente il potere d'acquisto. 900 ecco euro diventano 1800 dinari, anzi più, in Tunisia, e 1800 lev in Bulgaria, quindi il potere d'acquisto raddoppia. Accidenti. Andiamo un attimo in pubblicità, perché altrimenti non ce la facciamo. State con noi. 24 mattino, attenti a noi due. Allora, caro Oscar, eccoci qua alle 8:48 minuti. Guarda quanti ascoltatori, non so se intenzionati a prendere la via per il Portogallo o altrove. Carla da Napoli, buongiorno. No, senta, io mi chiedevo, trattandosi soprattutto di pensionati, quindi pensioni anziane che pensano a questi trasferimenti all'estero, io le faccio giusto l'esempio dei miei genitori, dove non ci manca nulla. Ecco, abbiamo mia madre col diabete, mio padre con un glaucoma, che usufruiscono di un'assistenza sanitaria per me ottima, nel senso che mia madre è sottoposta periodicamente a tutti i controlli. I medicinali che sono sempre cari, soprattutto ecco quelli del glaucoma, sono queste gocce molto particolari. E quindi mi chiedo che tipo di assistenza, andando poi verso sempre più una maggiore età, che tipo di assistenza sanitaria e a che costi riescono a trovare in questi paesi? Si informerà. Comunque sono paesi civilizzati, il Portogallo, sono paesi dove ci sono assistenza sanitaria, però uno si deve informare prima, chiaramente, non è che... Quindi non sappiamo, non ci può aiutare... dottor Fazio, sapere per esempio in Portogallo che tipo di assistenza sanitaria si ha. Insomma, al momento non è al telefono perché l'abbiamo liberato, però ci scriva una mail, attenti a noi due, radio24.it, e vi metteremo in contatto con Fazio. Ma insomma, Oscar, io non conosco l'assistenza portoghese dal punto di vista sanitario, ma è un paese dell'Unione Europea, è un paese, immagino che sia di buon livello, ecco, voglio dire, per i residenti. C'è Enrico da Padova, buongiorno. Buongiorno. Ma io volevo intervenire sul fatto della residenza in Portogallo. Allora, intanto la norma dice che bisogna dimostrare di essere residenti da 6 mesi e un giorno. Ci sono comunque, ed è accertato, parecchie di queste persone che vanno in Portogallo, si prendono un affitto, un bel appartamento, dichiarano di avere la residenza in quello stato, ma continuano a vivere in Italia. Tanto qui non controlla nessuno, lì ancora meno, e quindi io conosco persone che lo fanno normalmente. Quindi dobbiamo stare attenti, perché è vero che lo stato è rapinoso, però le regole vanno rispettate per tutti. Lei è convinto che sia il solito fenomeno di furbi e illusori, vero? Non totale, però non totale, però maggior parte. Vabbè. Ce ne sono parecchi, mi creda. Come vuole, sì. Poi a fare la propaganda di Stato è radicata nelle vostre teste in una maniera fantastica. Vabbè, grazie, buongiorno. Grazie Enrico. Qualcuno ci sarà, qualche furbetto, come in tutte le situazioni, sono non so quanti, se tanti, pochi. Ci saranno, purtroppo, tutte le situazioni. Immagina sempre che di poter contare su un vasto numero di milioni di italiani che dicono: ah, mi stai fregando, perché con i tuoi soldi meno io pago di più. Non è vero, naturalmente, però ne siete convinti. Sentiamo un po' anche Mimmo da San Giuseppe Vesuviano. Buongiorno. Buongiorno, salve. Eccoci. Senta, io volevo intervenire su un punto. Sì. Secondo me, per la libertà ognuno può vivere e risiedere dove vuole, però dalle mie parti dice: dove hai fatto l'estate, fai pure l'inverno. Molte di queste persone sono oltre 65 anni, oggi sappiamo che la vita si è allungata di tanto, e quindi i primi 10 anni che saranno in esenzione fiscale vivranno alla grande, sia in questi, in Portogallo, in Spagna, dovunque decideranno di vivere. Però poi mi domando una cosa, e quando poi arriveranno gli acciacchi, quando poi avranno bisogno della sanità, noi italiani che siamo rimasti a tirare la carretta qua, gli dovremo dire: caro amico, la sanità tu non l'hai pagata, tu non hai più diritto di utilizzare la sanità italiana, adesso ti paghi tutto, mi posto dove sei andato e dove sei stato in esenzione fiscale. perché questo messaggio che fate passare voi, che lo Stato è un ladro, lo Stato rapina i cittadini, sì, è assurdo. È assurdo. Vorrei dire una cosa. Sì, sì, ma anche io sono concorso che lo Stato ha una tassazione troppo elevata. Però non bisogna dirlo, tasse, dice lei. Pagare le tasse non deve essere passato come un furto. Ma non sto pagando. Ma perché? Secondo lei non le pago? Un attimo, volevo completare. Pagare le tasse è giusto perché lo Stato deve fornire. No, non è giusto perché non ve li servono. Quindi chi lo ripete fa propaganda. E lei sta facendo propaganda. Noi dobbiamo intervenire in cabina elettorale. Intervenite però. Non interveniamo e va come. Ma allora vede che siamo d'accordo. Non è questione di sfumature. Invece sì, perché chi mi dice che non può. No, abbia pazienza lei, mi scusi. Abbia pazienza lei, il messaggio è quello giusto, perché lei è il primo dice, è il primo che dice, i servizi non ce li danno, punto, capito? Allora, abbassino la pretesa, lei poi aggiunge, e siamo d'accordo, ma non l'abbassano, dovremmo fare qualcosa, e sono d'accordo pure su quello, quindi come vede, non c'entra niente col dire non pagate le tasse, perché sia ben chiaro, non l'ho mai detto, non lo faccio, è sbagliato, ma lei invece mi dice lei deve dire per prima cosa che è giusto pagarle, no, perché il diritto è nostro... Lo Stato ci dà dei servizi che si chiamano sanità, che si chiamano pensione, perché forse lei avrà dimenticato, all'epoca di mio padre, la gente, quando non poteva più lavorare, doveva stendere la mano. Si figuri, gli davano un pezzo di pane. Si figuri se l'ho oggi, dimenticato, ma sa quanto prendeva in meno lo Stato all'epoca? Troppo sì, poco. Siamo quanto prende adesso? Molto di più. Siamo d'accordo, però questo messaggio in cui lo Stato è un ladro non deve passare. E io... Presidente, non sono come lei ha detto di quel signore prima. Insomma, il messaggio che Oscar Giannino porta avanti. Lei difenda lo Stato, io da minoranza, ritenendo di essere rapinato, invece per quello che in cambio non dà a me. Ma in generale, sa chi ha meno? Lei infatti non lo vuole sentire l'argomento. Sa chi a chi ha meno lo Stato dà una roba che non difenda. Io la seguo con piacere, però voglio che lei... usando i mass media che ha a disposizione, faccia capire alla gente che evadere è una truffa, evadere è un furto. Invece lavoriamo con due priorità diverse. Ripeto, io penso che lo Stato che non dà quello che deve, innanzitutto a chi ha meno, a chi ha niente, agli incapienti, non siamo d'accordo, ma lei non convince me come io non convinco lei, però quelli come lei sono in maggioranza, questo è pure, io lo so bene, ci mancherebbe. Vabbè, che evadere sia una truffa lo dico io, però sono Alessandro Mino. Cioè, non è che l'evasione è una truffa, io dico che non è una truffa, è un reato, capisci? È un reato, ci mancherebbe altro. Solo che una volta se tu inizi dicendo quello, è finita, perché significa rassegnatevi invece in maniera legale, pubblica, contro gli eccessi di prelievo fiscale che, ripeto, soprattutto non danno servizi a chi non ha niente, gli incapienti, lì è giusto battersi, gridare, alzare la voce, non mancare del rispetto, non a quelli che la pensano come lei, neanche a chi nello Stato lavoro, ci mancherebbe, non c'entra nulla. In ogni caso, noi dobbiamo fermarci un attimo, ma andiamo avanti fino alle 9.30, come sapete. Riprenderemo agli ascoltatori, il tema, come vedete, ha scaldato molto, poi parleremo anche di attualità politica, qualche contorcimento all'interno del Partito Democratico. Berlusconi che voleva entrare da Vespa col bastone a fare la scena del vecchietto. Vabbè, che hai poi preso dopo... sto retroscena, lo stai caricando di colore. Ma dai, che lui entrava facendo il finto vecchietto. Viva Pane Bianco, che dice, caro Renzi, Berlusconi può giocare su due tavoli, è più bravo di te. Incredibile, io non l'avrei mai detto che avrei letto nel 2017 una cosa simile. Dai, in giornale radio e poi rientriamo. Vuoi conoscere le dinamiche e tutti gli aspetti professionali del mondo della radio? Autore, redattore, conduttore, produzioni audio e declinazioni web e social. Se una di queste è la tua strada, sintonizzati e frequenta il Master Part-Time in Content and Management di Radio 24, RDS e 24 Ore Business School. Un percorso innovativo per fornire strumenti professionali a chi ha iniziato o vuole iniziare a lavorare nel mondo della radio. A tua disposizione i massimi esperti del settore per una formazione completa ed esclusiva. Info su radio24.it. 24 mattino. Attenti a noi due. Eccoci qui, caro Oscar, 9:04. C'è Lorenzo intanto da Lecco, lo ringraziamo per la pazienza, è lì da un po'. Lorenzo, buongiorno. Sì, buongiorno, ciao Oscar, ciao Giannino. Io sono un videoblogger che ha dato molto spazio al discorso delle truffe anche che ricevono gli italiani, in particolare anche i pensionati, quando si trasferiscono all'estero, in paesi come le Canarie, in particolare Tenerife, ma anche il Portogallo. Si è parlato del discorso della del lato buono della medaglia, ma non si è parlato del lato cattivo. Mi state ascoltando? Sì. Certo. Ok, cioè, praticamente si sono formate delle organizzazioni vere e proprie criminali che agiscono in loco, in particolare alle Canarie, ma agiscono anche per via internet. In questi anni, in questi paesi dove il costo della vita è veramente basso, l'italiano che si trasferisce pensa che è come l'Italia. Quindi i prezzi delle case, per esempio, sono triplicati, ci sono delle immobiliari che sono veramente delle vere truffe, ma soprattutto agiscono anche tramite internet. Quindi c'è gente che inizia a dare soldi ancora prima che è arrivato là. Quindi il mio consiglio che voglio dare comunque a stare attenti. Questi qua che si vogliono trasferire è: andateci prima di persona, fatevi una vacanza, guardate dove volete andare, andateci più di una volta e soprattutto fate attenzione agli italiani, alle persone che vi si avvicinano, perché vi vogliono fottere su tutto, anche sui documenti, e ci fanno le creste e le sole su tutto. Vabbè, insomma, Lorenzo, giustamente bisogna cercare di muoversi con cautela, ecco. L'invito a diffidare riguarda innanzitutto gli italiani, propri connazionali, e io purtroppo, Lorenzo, sono d'accordo. Ma è così, cioè le truffe sono messe in atto da italiani? Questa è caduta la linea. Insomma, così pare, almeno, cioè che siano soprattutto gli italiani che fottono i polli, i propri polli. C'è Rosa da Bari. Rosa, buongiorno. Buongiorno. Allora, il mio quesito è questo: io ho 63 anni, sono un pubblico dipendente e chiedevo, prossima pensionata, per quanto riguarda la tassazione, per quanto riguarda i pubblici dipendenti, quindi queste agevolazioni, quindi attengono, riguardano soltanto I privati, cioè, soprattutto. Soltanto i privati. Che vuol dire soprattutto? No, quindi soltanto... Ha sentito, in Tunisia vale per gli statali, ma ad esempio in Portogallo no, credo proprio di no. Portogallo no. Portogallo. Quindi ci sono paesi. Ah, ho capito. Ci sono paesi dove gli statali. Questo leggevo almeno, proprio in un articolo della stampa che era dedicato alla storia anche di Rosario Fazio, che era con noi. In Portogallo no, gli statali. Invece in Tunisia sì. Comunque vedrà che basta che chieda, nel senso che in internet ci sono le liste dei paesi, siccome queste convenzioni per il no alla doppia tassazione sono soprattutto convenzioni bilaterali, vedrà che c'è una lista molto lunga di paesi con cui abbiamo questa convenzione, mentre invece per quella dei... Dunque, è diversa tra pensionati INPS e pensionati INPDAP, quindi per questo bisogna vedere anche che tipo di pensione, se INPDAP si ha e da quanti anni, e per quelli pubblici è più magra invece la lista delle convenzioni bilaterali. Ecco, quindi, però ripeto, siccome sono lunghe le liste, vedrà che con facilità, se c'ha un paese o un paio di paesi in testa per verificare se è pensionata pubblica, se c'è il regime bilaterale del no alla doppia imposizione, in 5 secondi è tutto ufficiale. Che la nostra Rosa era interessata al Portogallo, tra Portogallo e Tunisia gli è scemata un po' almeno da prima impressione, però insomma, appunto, bisogna informarsi bene, ecco, su questo, raccogliendo l'invito di Lorenzo Lalecco. Non è che uno dice ok, da domani mandiamo soldi in Portogallo, andiamo tutti lì. No, uno si informa, deve cercare di capire se può interessare. Ivano ci chiama da Pescara, buongiorno. Sì, buongiorno Alessandro e Oscar. Eccoci. Ma che dire, un po' di tristezza andare perché? Via dal nostro paese soltanto per, insomma, per una convenienza economica. Io capisco la situazione, però è un po' triste, perché dimostra poco attaccamento per il nostro paese, ma accetto la sfida, se vogliamo. Per alcuni la questione economica è fondamentale, non di solo pane vive l'uomo, dice qualcuno, ma accetto, ci sto. Vabbè. Vi dico questo: negli Stati Uniti, dove la pratica si chiama retired, quella di trasferirsi negli stati americani dove passare gli anni della pensione anche sulla base di ragioni fiscali e non solo, lo scorso anno è uscito un articolo del New York Times dove si suggerivano i 10 posti al mondo dove trascorrersi a trascorrere la pensione. Non ci crederete, ma uno di questi 10 posti al mondo era una regione italiana, tra l'altro quella da cui chiamo, e per questo anche che so di questo articolo, l'Abruzzo, dicendo che insomma le ragioni sono quelle di un contesto, insomma, economico sostenibile, l'ambiente, la qualità dei servizi, anche soprattutto dei servizi sanitari, l'enogastronomia, la criminalità, eccetera. Per cui, se vogliamo, giustamente lei, Ivano, tira acqua al mulino della sua regione, mi sembra giusto, no? Viva l'Abruzzo, che dobbiamo fare? Quindi, però, scusi, per stringere. Però la tassazione vale. Lei dice che quegli italiani che vanno altrove giudicando più favorevole potere d'acquisto è triste. Però vengano lei, in Abruzzo. Lei però dice, se vengono i pensionati americani mi va bene, capisce che c'è una qualche, no, potenziale, dico, mi limito a dire potenziale contraddizione tra la sua, sia pur educata e condanna di chi se ne va, e il fatto che però quando vengono da noi quelli, capisce che c'è qualcosa che non funziona. Cioè il mondo è globalizzato tra l'andare e il venire, non perché vi hanno messo in testa che fuori di qua chi se ne va non è un patriota, per il resto venite a spendere qua. Capite che c'è un piccolo difetto in questo ragionamento, ecco. Comunque vedi come è appassionato questo tema, caro Oscar, quante persone anche secondo me a ridosso dell'età pensionabile ci hanno chiamato per avere informazioni. Io ti dirò che aggiungo su questa cosa delle tasse, questa cosa fantastica, Sergio Rizzo a Repubblica, che a suo esordio ieri ha pubblicato questa pagina che molti avranno letto, del contribuente che, regolarizzata la sua unione omosessuale in linea con la legge dice siano le stesse detrazioni del coniuge, fa la dichiarazione dei redditi, non trova la casella e inizia con ampio anticipo rispetto alla scadenza in cui bisogna pagare le tasse, a dire bene, ma allora io come faccio a beneficiare della detrazione? E l'agenzia delle entrate gli risponde: beh, che domanda, ma secondo lei cosa dovrebbe fare? Cioè chiede a lui, dici come fare. Oggi il nuovo Ruffini, capo dell'agenzia delle entrate, non trova niente di meglio invece che spiegare che A, mettere in dubbio la storia, B, dire l'amministrazione si metta al passo. Sei tu l'amministrazione, Ruffini, sei tu il capo, cioè non so se è chiaro, questo per dare l'idea di come il fisco ci tratta, cari ascoltatori. Sapete che la battaglia principe di Oscar Giannino, e quindi la porterà avanti sempre nonostante voi lo attacchiate. Oh, beh, io sono dell'idea che chi è schiavo deve aprire gli occhi, la maggioranza degli schiavi è rassegnata, la storia è sempre andata avanti così. Comunque vogliamo parlare anche un pochino di politica, vogliamo salutare Annalisa Cuzzocrea di Repubblica, ben ritrovata. Buongiorno a tutti. Così come Marianna Aprile, ben ritrovata, eccoci qua. Buongiorno. Firma del settimanale oggi. Ciao Marianna. Allora, la politica, assistiamo ai contorcimenti del Partito Democratico, Renzi che litiga con Orlando. Facci piano, contorcimenti, già manchi di rispetto. Ma no, porta rispetto. Del centro-sinistra, volevo dire, allargato. Quindi seri problemi dialogici in vista della più opportuna delle linee da seguire tra segmenti dell'importante, fondamentale centro-sinistra. Saresti ottimo a fare al TG1, saresti non credo, ottimo non credo. Al TG1 oppure a introdurre una di queste convention sui contorcimenti del centro-sinistra. Direi che hai ragione. Mentre dall'altra parte c'è Berlusconi, appunto, che vuole cancellare il calendario. No, vabbè, vuole cancellare il calendario, vuole lanciare anche questa idea della flat tax, vuole lanciare la doppia lira. La doppia moneta, la lira e l'euro. Non so che questo ti appassiona molto. Mamma, vabbè. Vabbè, in tutto questo ho letto sul Messaggero anche tutta la questione dei vitalizi. Ti ricordi Richetti che abbiamo avuto qui, slitterà tutto. E infatti no? Richetti dice, chi non lo vuole lo dica, è un pezzo del tuo partito, tanto per cominciare, tutti gli altri appunto. Voi, Annalisa, che cosa ti appassiona di più di tutto questo? Oh madonna, a me contorcimenti sembrava un eufemismo, non so perché Oscar si sia scandalizzato. Non lo so. No, perché sennò ci dicono perché... che già nella fraseologia manchiamo di rispetto. Quindi. Ah, ecco. No, a me ha colpito che oggi, voi sapete, no, che i dirigenti del PD sono andati nella piazza di Pisapia ad ascoltare, sì. E come Orlando, Cooperlo, mi ha colpito che Renzi dica oggi o ieri, insomma, faccia capire a Orlando, devi deciderti, o stai di qua o stai di là, sì. Peccato che glielo dicono pure quelli di Pisapia, anche Speranza ha detto a Orlando in un'intervista, stai di qua o stai di là, quindi non si capisce più dove stai Orlando. Io sono stata nella piazza di Pisapia e sinceramente mi sembrano due mondi inconciliabili, cioè, mi sembrava di essere in una piazza di opposizione, voi sapete che io sono abituata ai comizi dei 5 Stelle, a tratti mi sembrava di sentire quelli. Cioè, ti sembra Pisapia un possibile leader di questa nuova coalizione? Perché già oggi Sinistra Italiana dice non ha parlato da leader, cioè Pisapia ha il carisma per mettere insieme, visto che questa è la parola utilizzata, quella parte di centrosinistra. Ma tu hai visto le difese di chi gli sta vicino, no? Che ha detto il carisma è una cosa strana, Prodi, lo ha detto Gotor, no? Prodi non è ricordato per i suoi memorabili discorsi, ma poi ha governato bene, Pisapia è stato un bravissimo sindaco, no, carisma non ce n'era in quella piazza. Nel senso che addirittura quando lui ha cominciato a parlare dopo Bersani, che invece l'aveva molto animata, aveva chiamato gli applausi su parole d'ordine appunto del tutto opposte a quelle renziane, quando ha cominciato a parlare Pisapia leggendo, aveva un leggio davanti per non perdere il filo, qualcuno addirittura ha cominciato ad andare via, non ha arte oratoria, non però arte insomma, oratoria. Questo non... Non vuol dire, non ha voluto nominare Renzi, però ha detto delle cose nei contenuti che comunque vanno contro il progetto del PD, ha detto no all'abolizione dell'articolo 18, al Jobs Act, ha parlato di accoglienza in modo del tutto opposto e di immigrazione in modo del tutto opposto a quello in cui lo sta facendo Minniti, lo sta facendo il governo sostenuto dal PD di Matteo Renzi. Quindi no, se tu mi chiedi carisma nel senso di chiamare la folla, quello no, che sia, che abbia una capacità di cucitura è tutto da vedere. Certo, per ora mi sembrano due mondi molto molto distanti, più di quanto mi aspettassi. Vabbè, ma è una politica un po' Oscar dei mondi distanti, non è che nel centrodestra Salvini e Berlusconi adesso siano vicinissimi, eh? Almeno così no, mi sembra. No, però scusami, no, aspetta, sì, a parole, però poi di fatto quando si tratta nelle città di fare le liste sparisce tutto, cioè il problema è che a destra è evidentemente... Vabbè, lì a sinistra hanno fatto una scissione. Una recita che serve a vedere chi prende più voti, ma la logica è ferrea. Invece lì poi non è una recita, cioè c'è una specie di... contemptus antropologico, cioè il problema è che intorno a Renzi si è sedimentato sempre di più una pregiudiziale antropologica, cioè tu sei quello che non ascolta nessuno, tu sei un deviante rispetto allo stile di leadership che la sinistra chiede, quella inclusiva. E lui Renzi continua a dire basta tornare a formule del passato nostalgiche eccetera, proprio basta Caminetti, basta queste sedute psicanalitiche in cui si cerca, cioè proprio va avanti per la strada. È la strada giusta, Marianna Aprile, secondo te, quella di Renzi, quella di dire non cedere a questo tipo di voglia di dialogo continuo, incontri, ricuciture? Beh, ma è la sua stessa storia personale che dovrebbe suggerire che non è proprio la strada giustissima, insomma, perché ha bruciato in pochi anni un patrimonio enorme, perché se pensiamo a cosa era Renzi, cosa appariva Renzi solo nel 2012-2013, insomma, ci rendiamo conto di quanto abbia dissipato in nome di questo liderismo a tutti i costi, anche di fronte alla mancanza della necessità di un leader, non so come dire. E poi no, anche la storia del suo stesso partito che dovrebbe suggerire ulteriormente, perché c'è lui che non parla di Pisapia per non fargli campagna elettorale e che detta questa linea anche ai suoi, ricorda un po' il Bertoni, no? Del principale esponente dello schieramento a noi avverso del 2008, e poi sappiamo come andrà a finire. E non è in genere non paga. Voi prima dicevate litiga anche con Orlando, invece purtroppo no. Cioè, non litiga, il problema di Renzi è che non litiga, cioè di fronte a uno che alla fine è un ministro del suo, sì, del suo, dice, del governo, o con me o via, questo. Che propone una cosa tutto sommato ragionevole, cioè chiediamo la base, e Renzi però dimostra di non aver ancora capito che la base non è che la puoi evocare quando devi far bandiera dei 2 milioni di voti che ti hanno dato un'investitura e poi puoi scordartene appena qualcun altro la tira fuori per un indirizzo di governo. Sì, ricorda, il punto di rottura sarebbe questa richiesta di Orlando, a dire se si vuole fare un accordo, sì, in qualche modo con Berlusconi. La realizzazione di Orlando, che non pensavo ci saremmo mai arrivati. Se vogliamo fare questo accordo con Berlusconi, la base del PD deve essere interpellata in qualche modo con un referendum. Questo sarebbe, secondo Oscar, il punto in cui Renzi dice: no, ma questa cosa è ridicola, assolutamente incredibile. E oggi retroscena, visto che viviamo di retroscena, raccontano dei rapporti ai minimi storici tra Renzi e Orlando. Comunque, in ogni caso, io sono poco appassionato a queste questioni. Il problema è che la fine della Seconda Repubblica, quella di cui ieri hanno scritto Ernesto Galli dall'Oggi, oggi Pane Bianco, mi ritrovo in tutti gli articoli, è il fatto che non si riesce a superare che il leaderismo, cioè il partito personale, in un caso personale perché è patrimoniale Berlusconi, nell'altro personale perché è la leadership personale e dei pochi amici intorno, perché Renzi è questo, è innervato in una tradizione che con questo fa a pugni, cioè quella della sinistra italiana, non riesce a capire che il partito personale altrove, che esiste perché è un problema di tutto l'Occidente oramai, è il contrario del partito in cui quando si perde il leader personale ha diritto di levare dal tavolo la discussione su chi ha perso e perché. Renzi è convinto di questo. Renzi non ha mai parlato delle sue responsabilità nella sconfitta del 4 dicembre, dice che alle amministrative ha vinto, ecco, altrove nel partito personale chi perde va a casa subito. Ha vinto va a casa subito, cioè questo è che a volte è persino molto eccessivo, è anche il contrario. Però nel caso del PD, la faccenda di Orlando, Pisapia, i rapporti con la sinistra, chi è uscito, chi è rimasto dentro, ma guarda chi è uscito, eccetera, eccetera, ha a che vedere con, ma quando si perde, bisogna parlarne apertamente e capire in che cosa c'è qualche cosa da correggere oppure no. Per me questo è attualmente il peggior limite di Renzi, che dice non è vero, abbiamo ragione noi, cari italiani avete sbagliato voi e vi beccate il proporzionale perché l'aveste scelto il 4 dicembre, continuano a ripeterlo, quando mai il 4 dicembre si è votato sulla legge elettorale? Però questa è la mia opinione. Oscar, lui si legittima dicendo mi sono messo da parte, sono state fatte le primarie e che non risolvevano il problema di aver perso di fronte agli italiani, no, certo, capisci, le primarie. Il Partito Democratico di fronte a nuove primarie ha scelto nuovamente Renzi. Benissimo. Come segretario del e Partito Democratico. E sceglie di nuovo dopo poche settimane di non riparlare di un'altra sconfitta. Poi per carità, io non lo dico per criticare, perché mi sono anche un po' stufato di tutti gli insulti che i renziani mi mandano. Quindi fate così, siete convinti di essere nella strada giusta? Benissimo, io non so cosa dire, però non si può osservare che è un po' singolare questa interpretazione della ricerca personale. Poi magari Annalisa e Marianne non sono d'accordo e dicono Renzi fa benissimo. Io lo trovo un esercizio di torsione rispetto alla storia di questo pezzo di cultura di politica italiana un po' eccessivo, che rischia di aggravare i suoi problemi. Non si può far sparire l'unità, dai, come i ladri di Pisa la notte, e santo è Dio, bisogna l'unità trovare la parola giusta. Ma certo, mica l'ho fondata l'ha fondata Gramsci nel 24. Uno deve dire voglio il mercato, un giornale non si regge più, ma devi dire qualcosa, non puoi far finta di niente lasciando lì i direttori giornalisti. Lo può fare quel perfido schifoso di Berlusconi, e Berlusconi non lo ha mai fatto per i suoi giornali. Se lo fai tu diventi la caricatura, capisci, di un tycoon capitalista, la caricatura. Magari sbaglio io, Annalisa, che dici? No, ma sono d'accordissimo con Oscar su questo. La vicenda dell'unità è davvero simbolica. Cioè, i giornalisti dell'Unità erano lì in piazza da Pisapia a cercare di farsi sentire da Cooper o da Bersani, che li hanno incontrati, hanno fatto loro promesse, ce ne occuperemo, è vero, uno scandalo. Però voi avete sentito un dirigente del PD che ha detto una parola? Però al di là che ci sono delle persone che sono rimaste senza stipendio e senza cassa integrazione, se non sbaglio, da 4 mesi, ma è una storia, è un simbolo fortissimo di quello che è stata la sinistra in questo paese. E tu non trovi altro da fare che far nascere un foglietto in PDF che fai girare su WhatsApp e su internet, che si chiama Democratica, che simbolicamente vuol dire ne facciamo a meno, andiamo oltre. Cioè, però dici Renzi, pubblicamente, no? Non lo però si dice. Però pubblicamente, ma vuoi dire una cosa? Vuoi dire non si può fare, non abbiamo retto, non abbiamo i soldi, la proprietà non ci aiuta, mi dispiace molto. Una qualsiasi cosa, eludere i problemi. È quello che Renzi fa da sempre. Quando ha governato, secondo me, il problema fondamentale di Renzi era non voler mettere la faccia sulla sofferenza. Non so se vi ricordate il momento in cui c'erano le stazioni piene di immigrati, c'era un momento di crisi a Milano, a Roma. Come adesso, io avrei voluto il Presidente del Consiglio lì. E invece lui prendeva e andava a vedere la finale US Open con le italiane, cioè vuole sempre mettere la faccia sul successo, sull'Italia che ce la fa, sul merito che vince, sul progresso. Ma vabbè, è stata proprio parte dello storytelling renziano, no? L'Italia che riprende l'Italia. Però poi Renzi non può dire come fa che il problema è stata la comunicazione, no? Tu dici, non dice che ha perso, non dice che ha fallito, lui dice abbiamo avuto un problema di comunicazione, quello che ripete su tutto, sugli 80 euro, sul referendum della riforma costituzionale, ma il punto non è solo la comunicazione, il punto è che proprio quel messaggio non parla a questo paese. Qui Marianna, ancora non è stata Marianna, abbiamo un minuto. La questione dell'immigrazione quanto incide su questo? Perché si dice anche Minniti si è spostato a destra, si insegue un po'. Mi pare che si stiano spostando tutti a destra, nel senso che hai voglia di dire che il voto delle scorse settimane era solo un voto amministrativo, è stato un calotaggio nella pancia del paese, siccome è un voto che di fatto hanno vinto i mal di pancia, tutti si spostano in direzione dei mal di pancia. Nel caso dell'accordo del prevertice di Parigi, se vogliamo, ci sono anche, come dire, delle pezze d'appoggio per uno slittamento verso un contenimento del fenomeno, però è che a casa nostra noi abbiamo questa deviazione proprio, come dire, cognitiva, che ci porta ad affrontare come un'emergenza nazionale quello che è un problema geopolitico, e quindi, cioè, nel momento in cui si sbagliano le proporzioni, è difficile pensare che si trovi una soluzione adeguata, tanto più che uno dei punti del prevertice di Parigi, su cui oggi i giornali titolano entusiasticamente, raccontandolo sì, come una vittoria di Minniti, è il finanziamento della Libia per contenere gli sbarchi. Neanche un mese fa le motovedette libiche sparavano sulla nostra guardia costiera per non fargli salvare gli immigrati che avevano intercettato. Ora, io non so quanto abbia senso, appunto, finanziare un paese che, sì, che si comporta così già verso di noi, che non è un problema, non è un paese molto, molto controllabile, peraltro, che è astatuale, che non si riesce, esatto, a capire chi oggi il Corriere lo spiega molto quanti bene, quanti soldi prende da chi per fare cosa. Oggi il Corriere spiega molto bene perché la Spagna risolve il problema col Marocco sull'immigrazione, perché ha il Marocco di fronte, paese, no? Che non è astatuale ma ha un certo controllo, la Libia. Dai, chiudiamo sempre con Paolo Villaggio, che è morto questa Paolo, mattina. Paolo, sì, tutti noi, esatto, e ci troviamo domani. Tozzi fa anche rima con Abbozzi, è giusto, come strozza bene lei.